siamo pronti, possiamo iniziare. Dai che partiamo, è l'ultimo appuntamento della settimana, inizia On The Road, datemi la sigla, va. TRM. On The Road. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your you just found it. It's your time. Che sigla! Da paura! Welcome! Welcome! Bienvenido! Buenas tardes! Welcome! Bonsoir a tout le monde! Get ready for some fireworks. Nell'era dello streaming devi parlare più lingue. Devi essere avanti nei tempi, voglio dire. And now your favorite DJ. Eccomi, Roby D'Antoni puntuale anche oggi a portarvi avanti per le prossime due orette, quindi sino alle 17. Iniziamo! Flashback. Iniziamo con un flashback come d'abitudine, un disco che ci porta indietro nel tempo, sino ai primi anni 80, credo, no? Una formazione che andava fortissimo in quel periodo, si chiamano Alphaville, questo è Big in Japan. Abbiamo cambiato inquadratura la nostra webcam, così potete vedere il nostro acquario da diverse angolature, voglio dire, bello così. E allora 15:12 ufficialmente inizia On The Road con Roby D'Antoni anche per oggi insieme, sino alle 17 come dicevo prima in apertura, e come d'abitudine abbiamo aperto l'appuntamento con un classico, un disco che siamo andati a ripescare indietro nel tempo, ovvero gli Alphaville, questo è Big In Japan, ci fermiamo un attimo. On The Road.

out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Mars da marzo. No, non lo so se Mars da marzo o da che cosa. Va bene, va bene, va bene. No, stavo pensando che fa veramente freddo. In questi giorni si è abbassata notevolmente la temperatura. Tutto questo anche per il fatto che ci sono le montagne, le alte montagne piene, ma non solo le alte montagne. Anche qua in zona, andando oggi sul litorale verso Termini Imerese, si notano le montagne sopra Caccamo, un po' sopra Gratteri, no? Sono tutte imbiancate. Sembra il Pandoro, il classico Pandoro, quando sono imbiancate con lo zucchero. Quando si mette lo zucchero sul Pandoro è suggestivo, però è fuori luogo, anche se ci ha abituato il brutto tempo che in questo periodo ha fatto sempre qualche nevicata. Fatto sta però che ne ha fatta davvero tanta. Ieri c'erano dei problemi per la viabilità, oggi credo un po' meglio, poi vedremo magari se riuscirò a collegarmi con alcuni miei inviati casuali, perché poi io mi metto in contatto con amici che ascoltano la radio in streaming. A tal proposito volevo ricordare il nostro indirizzo crmpradio.it, ci ascoltano dalle Alte Madonie, magari poi mi faranno pervenire i messaggi con le condizioni meteo, soprattutto le condizioni di viabilità per le strade, se si deve raggiungere le Alte Madonie come il sottoscritto. Stasera devo fare una bella capatina in montagna in quel di Petrelia, e quindi andrò a prendere una bella boccata di fresco. Però la cosa fa piacere, perché dovete sapere che il fresco fa bene alla pelle, il freddo fa bene alla pelle, la tiene giovane soprattutto. Ecco perché chi sta in montagna rispetto a chi sta al mare ha la pelle un po' più liscia. Vi regalo questa nuova canzone di Patty Bravo, che a me piace tantissimo. In questo caso ospita il grande Morgan. Senti chi bussa la porta. Sarà il solito scocciatore della domenica, ma no, tu non ti muovere, che stai benissimo su di me. Venti minuti d'amore. Sentire la televisione di questa economia mi vuoi, o vuoi un altro caffè? Dicevi non si può, e poi sei qui da me. È un scelta mai di chi confonde il vento con le rose. Giura, o forse meglio di no, sarà l'ennesima voglia di nuovo di questa vita mia tra noi. Un letto ed un caffè, chissà domani se sarà possibile. Sesso con l'amore, ma fino allora fammi vivere così, è l'incoscienza ormai. Permesso, permesso, sono io. Sono io lo scocciatore della domenica. No, no, no, io la domenica mattina non potrei farlo mai. In qualche occasione soltanto ho fatto degli special. È tipo la domenica scorsa quando abbiamo fatto in diretta tutto quello che è successo al palazzetto Marzio Tricoli. Abbiamo fatto vivere in diretta i nostri radioascoltatori. Ci fermiamo un attimo, poi torneremo ancora. State lì perché On The Road per iniziato. On The Road. Sono accorto che bisognava decidere, finché un bel giorno la carta d'identità Max Pezzali dalla Sanremo, ormai ne se ne può parlare perché è finito già da una settimana e quindi si possono tirare le prime somme. Questo è uno dei singoli più suonati, più gettonati, più richiesti, credo anche più acquistati in linea e non solo. Va bene, c'è ancora musica, qua bisogna mettersi il cappello da cowboy e ballare il country. Si chiama Something in the Water. Finale, dai, finale, bellissimo, mi piace, mi piace. Aspetta che vi faccio sentire come suona il piano, dai. Ne abbiamo allestito uno così al volo in studio. Sono bravo. Questo è il nodo di Rafael Gualazzi. Dire sì, dire mai, non è facile, sai. Se tutti quanti siamo in orbita nella follia. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei, mi basta perdere l'incanto di una nostalgia, ma vedrai un altro me in un sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai, cercherai un altro me. Troverai solo me. Se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. E intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamoci alla soglia della mia pazzia. E vedrai un'altra. me, disarmato, fragile, perché quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu. Perdo neanche un solo attimo di te. E allora io avevo anticipato che in questo weekend avrei ospitato un caro amico che ci teneva informato su quelli che sono gli appuntamenti motoristici in Sicilia. E allora con noi anche oggi Eros, ci sei Eros? Mi senti? Ci sono, ciao, ciao Eros, come va? Bene, perfetto. E allora, mi senti perfettamente? Possiamo parlare? Sì. Parlare di rally, si apre ufficialmente, diciamo, la stagione rallistica in Sicilia, no? Sì, diciamo che si accendono i motori con questa prima fase. Certo che il tempo non è dei migliori, però potrebbe essere un'occasione per testare anche le gomme da bagnato. L'assetto da bagnato. Perfetto, io intanto devo fare un saluto, gliel'ho promesso, tu stesso mi hai fatto notare i video che girano per ora su Facebook delle vecchie edizioni della Targa Florio, già diciamo che si comincia a respirare un po', anche se mancano tre mesetti, anzi forse qualcosina in più, perché il primo weekend di giugno la Targa Florio tornerà in Sicilia, però già ci sono gli amici appassionati. Volevo salutare Gianluca che quotidianamente mette dei video, condivide dei video su Facebook e mi fa venire la pelle d'oca, perché parlano di vecchie edizioni della Targa Florio. E allora Eros, di cosa parliamo? Allora, parliamo della prima Crono Race a Racalmuto, in provincia di Agrigento, che si disputerà appunto nell'autodromo Valle dei Templi. Si tratta di una sorta di mondo rally show, più o meno come motor show pure, dove ci saranno appunto delle vetture inserite per categoria di cilindrata, non come raggruppamento vero e proprio di un rally. E parteciperanno sia storiche che moderne, quindi chiunque potrà testare la propria auto, purché munita di sicurezza, appunto. E di... Diciamo che vuole essere anche un modo per andare a testare le auto, no? Sì, esatto. In apertura della stagione la gente ne può approfittare, i ragazzi possono approfittare, esatto, per andare a testare le loro auto da corsa. Una sorta di shakedown. Una sorta di shakedown che, tra l'altro, sta riscontrando un boom tra gli iscritti. Ho appena visto l'elenco iscritti, le partenti, abbiamo 100 proprio iscritti, numero... hanno raggiunto 100 iscrizioni. L'organizzazione, che tra l'altro è un'organizzazione di Agrigento, sono un gruppo di 4 appassionati che tra l'altro corrono pure tra di loro, che appunto è venuto in mente di organizzare questa manifestazione, tra l'altro con un boom di iscritti, quindi come inizio non c'è che hanno fatto, infatti. E allora, visto che il tempo non l'abbiamo per ricordare tutti e 100, ricordiamo quelli, i prioritari, la gente diciamo che partiranno in ordine decrescente per categoria, quindi le vetture più piccole partiranno prima, fino a poi... Un po' come succede nelle cronoscalate. Esatto, sì, un po' come nelle cronoscalate, bravissimo. Niente, tra gli ultimi 10 dobbiamo ricordare un equipaggio, tra l'altro... cefaludese, composto da Serio Antonio e Lombardo Giacomo, che sono due carissimi amici miei, quindi anche loro equipaggio. Pensa che con Antonio abbiamo fatto un po' di chilometri andare a vedere il rally, quindi equipaggio anche under 25, tra l'altro, da sottolineare, perché sono tutti e due entrambi under 25. E poi abbiamo l'avvocato Di Lorenzo con la Mitsubishi Evo 9, Mario La Barbera, Ciffo. Tra l'altro ultimamente Mario ha preparato la 207, se non vado errato. Sì, che tra l'altro è messa a disposizione di Pipolo, quindi la testerà Pipolo in vista del prossimo rally del Platani, quindi ci saranno due Super 2000 che sono guidate da Pipolo e di Benedetto Alfonso, che rientra in pista. Alfonso che con la sua auto... Esatto, sì, ritesterà sicuramente gli aggiornamenti appena fatti da Terrosi in vista del campionato, che ancora non sappiamo se disputerà il TRA o altro. E poi ricordiamo il nostro caro amico Filippo Vara, il nostro amico Madonita, e che testerà la nuova nata in casa Guagliardo, una Porsche del gruppo 4, sempre affiancato da Rappa Gianfranco. Quindi diciamo questi nomi da sottolineare tra i primi 10. Poi in classe 2000 Roberto Lombardo, che tra l'altro è un ragazzo che va davvero forte con la sua fida Clio Williams, testerà anche gli... Cioè, un equipaggio conosciutissimo nelle gare sì, nostrane, sì, sì. Perché le fa quasi tutte. Le fa tutte, esatto, sì. Quindi diciamo si prospetta una bella giornata di motori, sempre tempo permettendo. Tempo permettendo, infatti. Esatto. Speriamo bene, speriamo che il tempo sia clemente, anche se devo essere sincero, io ho dato uno sguardo al meteo.it e domenica almeno nella nostra zona, non ho guardato nell'Agrigentino, si prospetta una bella giornata di, sì. Soprattutto in mattinata è una bella giornata di sole, poi qualche nuvola arriverà nella serata, però speriamo bene, speriamo che possa essere una bella giornata per i ragazzi che vanno a testare le auto. Noi tutto questo lo stiamo facendo in attesa poi di commentare ufficialmente le gare che inizieranno il primo, credo, la prima 20, gara ufficiale 19 e 20 di marzo. Perfetto, sarà la prima gara ufficiale con tanto di cronometri, di tempo, di classifiche, eccetera, eccetera. Tra l'altro possiamo dare una news proprio freschissima, dove avremo in questa prima gara Toto Riolo che testerà una Peugeot Kit. Nel primo round di Gioia Marea. Tra l'altro da poco ha cambiato pure scuderia, è uscito il comunicato stampa che quest'anno sarà sotto i colori della Concordia Motorsport, quindi per una scuderia agrigentina. Ah, bene, bene, questa è una news che una cioè, news fresca fresca. Fresca fresca. Fresca sì. Fresca anche perché col freddo che fa. più fresca di così credo non possa essere. Va bene Eros, allora noi ci risentiremo poi lunedì, perché abbiamo dato, e dimmi una cosa, quante sarà una sorta di ronde, come combinato, quanti si saranno su giri, come sì, saranno diciamo da intendere come 5 prove speciali vere e proprie, una il sabato pomeriggio, quindi con partenza alle 14.01 della prima vettura, e faranno 3 giri in senso orario. Poi diciamo che le altre PS sono ricavate sempre all'interno del circuito in senso antiorario. Okay. Esatto, sì. Come se dovessero cambiare prova speciale. Esatto, con delle inversioni create, delle chicane, quindi una sorta diciamo di prova speciale all'interno del circuito. Perfetto, ci saranno le classifiche, così uno farà anche i conti con i tempi, anche perché sì, è vero, testare, però poi per testare la macchina a tutti gli effetti devi sempre andare un attimino quasi al limite, come se stessi provando proprio la macchina in gara, ecco. Esatto. Va bene, Eros. Va bene. Ci sentiamo lunedì, così poi mi darai i risultati di questo primo... D'accordo. Com'è che si chiama? Rally Conco... Primo Chrono Race. Chrono Race. Esatto. Ricordiamo nella pista di... L'autodromo. Valle dei Templi. Nel Valle dei Templi, in quel di Agrigento. Sì, di Ragalmuto. Di Ragalmuto, provincia di Agrigento. Io ti auguro un buon fine settimana, Eros. Quindi ci risentiamo lunedì. Sì, a lunedì. A lunedì, perfetto, grazie Eros. Ciao, ciao. Grazie per le news sempre fresche. Ciao, alla prossima. On the road. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? You want to be a rock star with blue-eyed bunnies in your bed. Well, remember when you're rich that you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. I don't want to take you dancing, oh, when you're dancing with the world. You can flash your caviar in your $1 million car. I don't need that kind of girl. But could you be the next sensation, or will you set the latest style? voce che ha sto ragazzo. Già da qualche anno ormai sta cavalcando il successo e non potrebbe essere altrimenti. Michael Bublé, che dice non so se era per farsi un po' di pubblicità, che lui ha iniziato i suoi primi concerti negli appartamenti delle persone. Sì, proprio così, perché faceva l'idraulico, aiutava il nonno che faceva l'idraulico, lui aiutava il nonno e andava a casa delle persone, cantava, e probabilmente qualcuno gli ha detto: uè ragazzino, perché non ti metti a cantare sul serio, che sei molto bravo. On the road, flashback. Questo è un disco che mi fa venire i brividi, perché mi torna in mente gli inizi radiofonici del sottoscritto tanti anni fa, ma proprio tanti, in un'altra radio locale, sempre qua a Cefalù. Iniziai a prima, le prime dirette, ad aprire per la prima volta il microfono. Questo fu uno dei primi dischi che suonammo. Allora, eravamo piccolini. Tears for Fears. Che disco, che disco. Si chiama semplicemente Shout. Bello, bello, bello, bello. Da pelle d'oca, almeno per il sottoscritto, perché sapete, no? Adesso non devo confermarlo io, è una cosa saputa e risaputa, che la musica, una canzone, un disco, un pezzo, anche una semplice musica di una colonna sonora, è una, come potremmo, un elisir, perché ti fa venire in mente, è rilegato sempre a dei momenti belli o brutti della nostra vita, quindi è grazie alla musica che riviviamo anche tutto ciò. Va bene, facciamo un attimo di pausa, 2 minuti, non di più. Poi On The Road con Roby D'Antoni tornerà puntuale subito dopo la pubblicità con un disco molto bello. Torneremo ancora a parlare di Sanremo e lo facciamo con la ta ta ta ta, la ta ta ta ta ta, la ta ta ta Angelo. On The Road. On The Road. C'è una ragione di più, l'hai detto, ma che bravo. Ma questa parte di te davvero la ignoravo. Non me l'aspettavo davvero. È come bere il più potente veleno, è amaro. Non recuperare, ti prego, tanto più parli ancora meno ti credo. Peccato. Lascia il silenzio e la sua verità. Aspetta. Voglio dirti quello che sento. Farti morire nello stesso momento. Bastardo. E poi vederti cenere. tocca a me soffrire, gridare ti amo, bastardo. Dai, non far così, chissà cosa ti abbia fatto mai. No, ma lei l'ha detto, perché questa canzone a chi l'ha soprattutto dedicata, a un ragazzo che non so cosa gli abbia fatto. Bah, ne sapremo qualcosina in più, perché poi arriveranno le interviste, anche se già qualcuna lei l'ha avuto, dove si parlava proprio di questo titolo. Perché questo titolo, lei ha spiegato che c'è stato un ragazzo che da ragazzina l'ha presa in giro, diciamo così, l'ha presa in giro. 16:18, buona serata sulla radio che si sente e si vede, CRM Happy Radio, potete vederci e sentirci in streaming, crmhappyradio.it. Tanti consensi per questo disco, è bello, è carino, pimpante, questo disco è dedicato a tutti quelli che stanno seguendo streaming la puntata di oggi, venerdì 25 febbraio. Roby D'Antoni con voi anche per questa giornata fredda, ma fredda con 5 R proprio. Va bene, visto che parliamo di musica bella da sentire, anche se tutt'altro genere, il rock stasera tornerà puntuale con Rock Revolution dalle 21 con Filippo e Simone Brancato. Stasera avranno ospiti ancora una volta in studio, saranno presenti gli Aria di Palermo e poi ci sarà un'intervista, gli Aria saranno presenti in studio, poi invece ci sarà una intervista telefonica con il giudizio di Eleonora, quindi un altro grande appuntamento firmato Rock Revolution, Filippo e Simone Brancato che vi aspettano puntualissimi dalle 21 naturalmente in diretta sui 101.4, poi in streaming CRM Happy Radio, quindi vedrete tutto quello che succederà in studio, oltre a sentirlo li vedrete proprio sul nostro sito ufficiale crmpiradio.it. Mauro Ermanno Giovanardi. Lo so di aver sbagliato e so cosa dirai. Lo so di aver sbagliato e sono qui, ma chi non sbaglia mai? Lo so di aver tradito, ma tradire poi cos'è? Non credo nel peccato, amore mio, perché non credo in Dio. Ho una frase sopra il muro, quando l'ho scritta non lo so. Non so resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai. Non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me. È un'altra possibilità, io la voglio. Non posso farne a meno del tuo amore, impazzirei. Ma perdermi tra i sensi mi divora e io non cambio mai. Questa frase è sopra il muro, no, non la cancellerò. Posso resistere a tutto, ma alle tentazioni no. Ma chiamerai il mio nome, lo so che lo farai. Non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me. Possibilità, io la voglio. Che lo farai, non c'è nessun altro al mondo così vicino a te, che è così uguale a me, è un'altra possibilità, un'altra possibilità. La Cruz, un'altra possibilità, io la voglio. E non avevo visto ieri sera, anche perché stavo guardando la partita del Napoli e non avevo visto questo servizio delle ieri, delle Iene. Non è stato ieri che davanti ieri le Iene, non ho avuto modo di vederlo, e parlavano delle strisce blu, le strisce blu, sei parcheggi dove tutti possono andare purché tu paghi il biglietto a seconda della città, varia. Per esempio ieri a Termina, a Termini i Menezi l'ho pagato 50 centesimi, a Cefalù credo sia 80 centesimi, ci sono zone dove sono anche a un euro, però voglio dire loro hanno fatto questo servizio dove dicono, detta di, del codice della strada, hanno interessato alcuni avvocati, che i parcheggi dentro la carreggiata sono abusivi, cioè non possono stare, perché la carreggiata deve essere da marciapiede a marciapiede libera. In poche parole, ritornando al discorso di prima, dei parcheggi, le linee, le strisce blu, eccetera eccetera, allora loro dicevano questo qua, che i parcheggi ricavati all'interno della carreggiata non possono stare, perché uno delle Ieni, leggendo il codice della strada, ha detto che leggeva che la carreggiata deve essere libera. Per carreggiata si intende quella strada, cioè quel tratto di strada che va da marciapiede a marciapiede. Se poi vengono ricavati all'interno di un marciapiede, va bene, sapete, i marciapiedi hanno delle rientranze, allora là possono stare le strisce blu. Però da carreggiata a carreggiata addirittura ci sono città dove sono ricavati proprio a ridosso di una curva, oppure che ne so, sui marciapiedi. Hanno fatto vedere nel servizio, ci sono dei parcheggi, delle strisce blu ricavate proprio sul marciapiede, cioè metà fuori dal marciapiede, metà sul marciapiede stesso. Cioè una cosa veramente vergognosa, perché tolgono metà marciapiede dove la gente dovrebbe transitare a piedi. Quindi ora vedremo un po' come andrà a finire. Tanto credo che sia stato condiviso su Facebook questo video delle Iene con le strisce blu, che probabilmente adesso ci sarà una sorta di bufera, però poi alla fine vinceranno sempre loro, credo, e poi va a finire sempre così, vincono sempre loro. Vedremo, però mi piacerà sapere come andrà a finire questa storia a riguardo le strisce blu. Noi vi terremo informati. Intanto, a proposito di informazione, sentiamo cosa è successo in quest'ultima ora. On the road. Piangerai pioggia tu piangerai e te ne andrai come le foglie col vento d'autunno. Triste tu te ne andrai, certa che mai ti perdonerai. Ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle. Penserai che la vita è ingiusta e piangerai e ripenserai alla volta in cui mi hai detto no, non ti lascerò mai. Poi di colpo il buio intorno a noi, ma si sveglierà il tuo cuore in un giorno d'estate rovente in cui il sole sarà e cambierai la tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che ti scalderà. Oh, arriverà una frase, una luna di quelle che poi ti sorprenderà. Oh, arriverà la mia pelle a curare le tue voglie, la magia delle stelle, la poesia della neve che cade il rumore. Oh, mai canzone fu più azzeccata in questo periodo. Con la neve che cade, i modassima Demma, con questa canzone che si intitola semplicemente Arriverà. Devo fare un saluto, lo devo fare a amici che ci stanno seguendo alla palestra mentre si stanno preparando. Oggi sentivo che questo è il periodo, il mese di marzo, il periodo dove la gente decide di iniziare in palestra. Quindi, visto che i ragazzi si stanno preparando, io voglio salutare l'istruttore per Luigi, che è un carissimo amico, la palestra Body Planet. Volevo salutarlo perché qualche annetto fa, quando ero più giovane, anch'io ho fatto parte di quella schiera di mattacchioni che eravamo là dentro nel pomeriggio, però quando c'ero io mi diceva Pierluigi che non si poteva lavorare seriamente, si scherzava sempre. Infatti Pierluigi mi aveva messo in un orario particolare, dalle 3 del mattino alle 4, da solo, mi aveva dato pure le chiavi della... Volevo salutare tutti i ragazzi che sono in palestra, soprattutto l'istruttore. Ciao Pier, sempre in gamba. Mi raccomando, con i ragazzi, falli diventare belli, perché l'estate sta arrivando e quindi, come dicevo le Righiera tanto tempo fa, l'estate sta arrivando e quindi dobbiamo essere pronti a farci trovare per l'appunto in grande forma, la prova costume, la prova maglietta aderente, soprattutto per i ragazzi. E allora facciamo una cosa? Un disco? No, dobbiamo fermarci? Che c'è di... Sì, dobbiamo fermarci perché ufficialmente, dopo aver salutato Pierluigi, la palestra... ho fatto bene a fare il saluto a Pierluigi, com'è andato? Ho fatto bene? Mi sono guadagnato un mese di... un mese di palestra mi sono guadagnato. E allora facciamo una cosa, vi porto al cinema! On the Road. Fatto tardi, mamma mia come vola il tempo. Allora, leggevo che è tutto pronto per la semifinale di Amici, il programma che va in onda domenica 27 febbraio in prima serata su Canale 5. Oltre a Giulia e Virginio, chi tra Vito, Danny, Francesca e Annalisa riuscirà a conquistare la maglia per la finale del talent show direttamente da Sanremo? Pensate, arriverà una madrina d'eccezione che ancora non si è vista in TV. No, no, Belen Rodriguez. Due palle però. Se non se ne può più, accendi la televisione ovunque, vedi Belen Rodriguez e Isabella Canale, ma basta, pubblicità, film, TV, programmi, ospitate, basta. Mentre per la puntata di sabato 26, dalle ore 14, Loredana Errore canterà un bel duetto con Loredana Bertè. Vi ho dato qualche anticipazione riguardo questo bel programma di Maria De Filippi, Amici, che ha sfornato davvero grandi, grandi nomi. On the road. Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto, un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze, i labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto, e a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore, starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore, e ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri, considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho, tutto l'amore che ho. Senza di te sarebbe stato tutto vano, come una spada che trafigge un corpo morto, senza l'amore sarei solo un ciarlatano, come una barca che non esce mai dal porto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po', considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Ma meno male che ho i miei radioascoltatori, in questo caso radioascoltatrice, che mi correggono, sono attenta alle gaffe che faccio. Avevo detto Elisabetta, più che avevo detto Isabella Canalis, anziché Elisabetta, e va bene, è che non se ne può più veramente, guarda, non ce la facciamo più a vederla in TV a tutte le ore, qualsiasi salsa, sempre loro due, e basta, basta. Va bene, non mi rimane altro da fare a questo punto che salutarvi, ringraziarvi, o naturalmente augurarvi un buon fine settimana, visto che oggi è il venerdì, rinnovare gli appuntamenti durante il weekend in replica, quindi la notte potremmo sentirci. Da Robinatone è davvero tutto, un bacione, è stato un buon weekend, non vi preoccupate, il tempo migliorerà. Le ultime parole famose. Bye bye, alla prossima, ciao ciao.